Ciao a tutti, oggi ricomincia Mala Radio. La formula sarà un po' diversa dallo scorso anno. Saremo più nomadi e cercheremo di raccogliere contributi nelle strade e nelle piazze che incontreremo. Per questo partiamo oggi, giorno di sciopero generale dei sindacati di base. Il traffico di Milano è stato in tilt per tutta la mattinata e la partecipazione è molto elevata. Sentiremo quindi i contributi che ci sono stati inviati dallo sciopero. A seguire ascolteremo le voci dei movimenti di lotta per la casa. Quelle raccolte al corteo avvenuto sabato a Cinisello contro lo sgombero dello spazio 20.092 e quelle del presidio che si terrà oggi sotto il comune di Milano per la sanatoria delle occupazioni e contro gli sgomberi. Ciao a tutte e tutti, questo che avete appena sentito è un coro, uno dei cori del corteo di stamattina, dove c'erano molti sindacati di base, molte lavoratrici e lavoratori e anche il reparto scuola, quindi dalle educatrici dell'infanzia alle maestre, alle educatrici di cooperative private, alle professoresse e professori delle superiori. E loro si stava dietro uno striscione. Che diceva no, per una scuola inclusiva, no, al Green Pass, perché tra le tante richieste, tra le tante esigenze per migliorare la propria condizione di lavoratore, c'è anche quella di eliminare questo ricatto sul lavoro che è il Green Pass, che come diceva un coro, inventato oggi dalle lavoratrici e lavoratori della scuola, il Green Pass non è una cura, non è una prevenzione, ma solo repressione. A questo spezzone della scuola ha sfilato insieme agli studenti dell'università, e alle studentesse dell'università, con il loro spezzone sempre contro il Green Pass, e ha trovato anche molto consenso da parte di molti lavoratori e lavoratrici, lavoratori soprattutto. Facchini, operai, che infatti alla fine del corteo si sono espressi molto duramente contro questa manovra del governo Draghi. Tra le varie richieste delle maestre ci sono, oltre appunto il Green Pass, c'è anche la questione del contratto, del loro contratto che sta per essere cambiato, e hanno paura, temono che la CGIL firmerà un contratto al ribasso. Invece le educatrici private portano avanti da anni ormai la questione dell'esternalizzazione, ovvero che come educatrici devono essere assunte come erano prima dal comune, perché l'ente pubblico si deve far carico e responsabilizzare su questa cosa e non delegare a cooperative private, perché tanto lui non ci guadagna niente come ente pubblico e ci perdono solo le lavoratrici che guadagnano molto meno rispetto alle loro colleghe internalizzate, cioè del pubblico. Quindi c'è stato anche dietro questo spezzone, no, Green Pass, una unione tra educatrici del comune e educatrici private. Thank you. Thank you. Siamo qui con un compagno dello spazio 20.092 per quanto riguarda la manifestazione che c'è stata oggi sabato 9 ottobre, che ha visto attraversare la città di Cinisello da circa 250-300 persone. Siamo qui con un compagno dello spazio che ci spiegherà sia il motivo della protesta e quali sono state le impressioni che sono uscite da questa manifestazione. Sì, ciao a tutti e tutte. Il corteo di oggi era un corteo per il diritto all'abitare e per la difesa dello spazio 20.092 sotto sgombero, e per raccontare un po' la storia che in questi 6 anni ha dato vita a questo spazio. E crediamo che sia stato un corteo partecipato, colorato, ricco di contenuti e soprattutto ricco di solidarietà, sia arrivata dal territorio sia arrivata da territori circostanti. Lo spazio 20.092, la struttura, è sotto sgombero per una procedura aperta dal Tribunale di Monza, per cui vogliono vendere lo stabile. E l'intimazione è quella di volerlo liberare prima di metterlo in vendita. Attualmente allo spazio ci abitano 50 persone, di cui 20 bambini e bambine, e in questi 6 anni ha ospitato una cinquantina di famiglie di varie provenienze, a livello di nazionalità. Quindi la prima ragione era quella di difendere questa esperienza, che è sia abitativa sia sociale e politica. Però era anche una giornata per portare all'attenzione pubblica una denuncia, che è quella del diritto alla casa negato, di un'emergenza abitativa per cui le istituzioni locali e nazionali non hanno risposte o non vogliono farsene carico. E la rivendicazione principale di oggi era quella di costruire un patto per la città, per il diritto alla casa, che parta un po' dall'unità, della solidarietà degli abitanti del territorio, sia per costruire dal basso risposte auto-organizzate come questa, sia per continuare a rivendicare alle istituzioni di fare il loro mestiere, di assumersi la responsabilità in merito a quelli che sono dei diritti fondamentali troppo negati. abbiamo chiuso il corteo con uno striscione lasciato sotto al comune che rivendica casa per tutti, maggiore giustizia sociale e che richiama un po' quello che è il nostro lavoro, che è basato sulla solidarietà popolare di classe. Ringraziamo nuovamente tutti coloro che hanno partecipato a questa giornata e siamo pronti a ritornare a lottare da domani, a partire anche dal presidio che ci sarà lunedì pomeriggio sotto il comune di Milano. E più o meno cosa pensate della partecipazione di oggi? La partecipazione di oggi è stata bella ed è stata importante, perché ha visto un incontro di generazioni diverse, per cui dai bambini agli adulti e anche agli anziani, di varie provenienze, persone di Cinisello con persone di Sesto, di Milano, di Monza, che insieme, uniti sotto delle parole d'ordine, sotto delle sfide comuni e sotto questa volontà di costruire delle pratiche di maggior giustizia sociale a partire da un lavoro concreto e quotidiano sui loro territori. Per cui oggi ci siamo trovati qui a Cinisello, ieri in un altro territorio, domani in un altro territorio ancora. Questa è la solidarietà e la nostra forza che continua a farci lottare.

Ciao a tutte e tutti. Grazie per tutto quello che ci avete mandato, per gli audio e i racconti. E ci auguriamo che anche per le prossime mobilitazioni tutti prendano l'abitudine di mandarci quante più voci possibili, perché così riusciamo veramente a raccontare tutto quello che succede e ad amplificare la voce di chi lotta. E concludo la trasmissione di oggi dicendovi che, ricordandovi che mercoledì ci sarà un presidio davanti al Tribunale di Milano alle ore 9 in solidarietà a chi è stato arrestato durante le manifestazioni No Green Pass. Infatti, cominciano i primi arresti ed è importante anche far vedere che chi paga perché lotta non viene lasciato da solo. A presto, alla prossima! Thank you.